perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le micine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramà, maramà, pane e mici in coro, maramà, maramà, maramà. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Quando tutto tace su nel ciel la luna fa, col mio più dolce caro miau chiamo Maramao. Vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar, ma pure loro senza te sono tristi come me. Maramao, maramao, maramao, maramao, perché sei morto,